Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Vittore Beretta, salumi italiani ma non solo, da oltre 200 anni, di Adriano Palazzolo. La storia che vi raccontiamo oggi risale a più di 200 anni fa. Nel 1812 a Barzanò, un piccolo comune lombardo in provincia di Lecco, Giuseppe Beretta apre una bottega per la lavorazione delle carni. Nasce così quella che oggi è diventata una delle aziende italiane leader al mondo per la produzione di salumi e carni stagionate. Il gruppo Fratelli Beretta, famiglia giunta all'ottava generazione. A raccontarci come si è arrivati fin qui è Vittore Beretta, appartenente alla sesta generazione e oggi presidente e amministratore delegato del gruppo. Nel 1800 era di dimensioni che adesso diremmo artigianali, anche perché allora mancava una cosa determinante, che è il freddo. Cioè era un'azienda stagionale, perché appunto si poteva macellare d'inverno, si poteva lavorare le carni col freddo e la salatura, la affumicatura eccetera permetteva di arrivare a queste carni anche nei mesi estivi. Il vero impulso è stato dato agli inizi del 1900, soprattutto da parte di mio padre e mio zio, che erano l'undicesimo e dodicesimo figlio di Vittore Beretta, mio nonno, e tornati da militare, tutti e due hanno fatto la Grande Guerra, sono tornati e buttandosi nell'impresa di famiglia hanno deciso di investire nei frigoriferi, quindi le prime celle frigorifere che hanno permesso, ha fatto la vera rivoluzione del settore nostro. Subito dopo la prima Grande Guerra e quando erano da poco arrivati dalla, perché l'invenzione è americana, erano giovani, fiduciosi dell'avvenire, si sono indebitati, hanno investito e hanno potuto così affrontare il mercato allargando l'azienda, hanno permesso di destagionalizzare la produzione di salumi, quindi avere dei salumi, permettere la produzione, la commercializzazione, la distribuzione di questi salumi tutto l'anno. Tant'è che allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, dopo 20 anni, l'azienda aveva già dimensioni medie, insomma impiegava circa 40 dipendenti, 40, che allora un salumificio era un medio salumificio. L'azienda cresce, ma con la Seconda Guerra Mondiale arriva il razionamento della materia prima, la carne. E per la Beretta si tratta di un momento molto complicato, nonché pericoloso per la vita di Mario e Felice Beretta, rispettivamente zio e padre della voce narrante di questa storia. Le carni appena macellate o lavorate dovevano essere consegnate allo Stato, che c'era la famosa tessera, perché razionavano la distribuzione ai consumatori di tutti gli alimenti. Mio padre andava a prendere questi maiali che c'erano soprattutto nella Padania, col camion, ha subito varie mitragliate proprio dagli aerei inglesi, in quel caso lì, mi raccontava, e era già una grande impresa procurarsi la materia prima. Poi quando arrivava era tutto sotto il controllo dello Stato durante la Repubblica Sociale, quindi si lavorava praticamente per conto dello Stato. Finita una roba che è durata un paio d'anni, finita la Grande Guerra sono tornati anche tutti gli operai che erano andati a militare, lì è cominciato lo sviluppo e quindi da lì padre e mio zio sono stati affiancati da mio fratello maggiore. E negli anni 50 c'è stato tutto uno sviluppo, tant'è vero che agli inizi degli anni 60 contavamo oltre 100 dipendenti. Il dopoguerra passa in fretta per l'azienda e gli anni che seguono portano alla Beretta un continuo sviluppo. Lo stabilimento rimane unico fino agli anni 70, quando si apre un secondo sito per la produzione di un'assoluta novità per il territorio italiano. A metà degli anni 70 decidiamo di costruire un altro stabilimento e siamo andati fuori paese, perché noi siamo in centro paese a Barzanò, quindi siamo andati nella Bergamasca, a Medolago, e abbiamo costruito un altro bello stabilimento, ma è stato il primo stabilimento italiano fatto per fare Würstel, che era un prodotto che cominciava di derivazione tedesca o austro-ungarica, che cominciava a avere un suo mercato, e quindi abbiamo fatto questo stabilimento, si è sviluppata, abbiamo aggiunto poi la lavorazione dei prosciutti cotti in loco. E niente, questo dal 76 in avanti con due stabilimenti. L'azienda cresce, ma gli anni 70 portano per Vittore Beretta il ricordo di una prima grande crisi. Negli anni 70 c'è stata la prima peste suina africana, che di fatto chiuse l'Italia nel proprio guscio, e c'è riuscita dopo 20 anni a piano piano a riaprirsi. Quindi ci fu, ecco, la grande crisi anni 70, 73-74. È successo che scoppiò la peste suina africana in Italia e tutti gli altri paesi dissero: no, non vogliamo i salumi italiani perché sono pericolosi, eccetera. Il mercato ne risentì all'inizio, però dopo lo superò. Il dramma è che quando un paese chiude, per riaprire ci impiega molto più tempo, anche perché usasi il motivo sanitario per come barriera. Tant'è vero che l'America chiuse allora, cominciò a riaprire piano piano al prosciutto di Parma nei primi anni 90, insomma fine anno nel 90, e adesso e idem gli altri paesi. Se pensate che la Cina ha aperto 7-8 anni fa, l'Australia ha aperto un anno fa, un anno e mezzo fa, quindi oggi si arriva nel mondo però con pochi prodotti. Il Parma, i prodotti DOP di lunga stagionatura, Parma, i prosciutti crudi soprattutto. Gli anni 70 e 80 servono all'azienda per espandersi e consolidarsi. Dopo la costruzione dello stabilimento per i Wuster, si procede con l'acquisizione di due stabilimenti per il prosciutto di Parma e con la costruzione di un altro stabilimento per la produzione del salame. Il gruppo Beretta oggi possiede 18 stabilimenti in Italia, uno in Cina e 3 negli Stati Uniti. Il fatturato dello scorso anno ha raggiunto i 690 milioni di euro, mentre le generazioni si susseguono in famiglia come in azienda. Non è facile, però l'impegno che esige questo gruppo è anche entusiasmante, di soddisfazione se uno ci crede e lo ama. Grazie al cielo noi siamo stati fortunati nei cambi generazionali, sia da parte di mio fratello e io verso i miei genitori, lo zio, i miei nipoti e i miei figli verso di noi, quindi c'è sempre stato l'innesto delle nuove generazioni affiancando le vecchie e dando un certo tempo per imparare. Però quando c'è sviluppo, se si riesce anche, e tutti hanno da lavorare, c'è da lavorare da mattina alla sera, e se uno ha un po' di amor proprio, competenza, entusiasmo, è facilitato a entrare, perché c'è da lavorare per tutti. Questa è la nostra esperienza. Certo che l'industria familiare ha il grande rischio del cambio generazionale, che se va bene ha risolto un grande problema e ha degli atu in più rispetto alle altri tipi di industria. Se va male, a volte è il problema grosso. Solo l'anno scorso 200 milioni di euro di fatturato sono arrivati dall'estero per la Beretta, i cui prodotti trovano posto sulle tavole e nei supermercati di oltre 60 paesi. I paesi europei quasi tutti, la Spagna un po' poco, ma gli altri dalla Francia in su, o anche i paesi est, stavamo facendo un buon lavoro in Russia, adesso ci sono i problemi della chiusura. L'Europa poi ci sta dando ottime soddisfazioni, l'Oriente, Cina, Giappone, l'Australia adesso anche, e soprattutto il mercato NAFTA, Stati Uniti, Canada, Messico. Questi stanno andando forte. Salumi interi da affettare, würstel, vaschette già pronte, confette, cubetti o listarelle. La Beretta ha sempre cercato un contatto diretto col consumatore, immettendo nel mercato confezioni col proprio marchio. Ma non tutti sanno che Beretta non vuol dire soltanto salumi. Non ho parlato di un'altra cosa, che noi a latere dei salumi, che vi ho detto confusamente, abbiamo anche un'azienda che in partecipazione siamo in joint venture noi e i nostri partner francesi Fleury Michon, per fare gastronomia fresca italiana, quindi piatti pronti, freschi di non surgelati, e quindi tutto esce con la logistica dello 0+4, come la maggior parte dei nostri salumi, e lì abbiamo un'azienda che si chiama PFI, Piatti Freschi Italia, che esce con il marchio Viva la Mamma Beretta, Viva la Mamma Beretta, e lì abbiamo 4 stabilimenti, oltre 300 dipendenti, e siamo leader di mercato nella gastronomia fresca in Italia. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.